In vero l'inferno è in agguato. Asilo per i ribelli. Labithina fiha ahqaba. Vi dimoreranno per intere generazioni. La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. Senza gustare né freschezza né bevanda. Illa hamiman wa ghassaqa. Eccetto acqua bollente o liquido infetto. Giusto compenso. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Poiché non si aspettavano il rendiconto. Sfrontatamente tacciavano di menzogna i nostri segni. Mentre di ogni cosa abbiamo tenuto conto per iscritto. Adhuku falan nazidakum illa azaba. E allora gustate il tormento. A voi non accresceremo null'altro che il castigo. Innali muttaqina mafaza. In verità avranno successo i timorati. Giardini e vigne. Fanciulle dai seni pieni e coetanee. Calici traboccanti. La yasma'una fiha lahwan wa la kidhaba. Non udranno colà né vanità né menzogna. Compenso del tuo Signore, dono adeguato. Da parte del Signore dei cieli e della terra e di ciò che vi è frammezzo. Del compassionevole, cui non oseranno rivolgere la parola. Il giorno in cui lo spirito e gli angeli si ergeranno in schiere, nessuno oserà parlare, eccetto colui cui il compassionevole l'avrà permesso e che dirà cose vere. Lo spirito, l'angelo Gabriele, pace su di lui. إلى ربه